è troppo. Figurati, allora, chiamo a me, chiamo a me. Purtroppo dobbiamo andare in base a quello che ci dicono. Pare, ci vuole iniziare da prima, sarebbe stato già anche finito, un buon punto, capito? Purtroppo ci iniziamo a voi quando tutti sono d'accordo. Io ricordo qua quando abbiamo fatto la facciata, sia quella lato strada che quella interna. Molti non erano d'accordo che ci volevano un sacco di soldi, però abbiamo fatto lo stesso e chi non aveva la possibilità di dare di più che sia migliorato in 2-3 volte assieme al condominio, però la facciata abbiamo dovuta fare. L'abbiamo fatta nel periodo caldo, capito? Perché diversamente in un caso 37 metri non è che la puoi fare, puoi piazzare il ponteggio all'interno l'inverno al defendimento, grazie, gli alberi buonci. Infatti perché ci avevano chiesto un pacco di soldi per fare la facciata a ponteggio, avevamo deciso di prendere la scala, l'avevo fatto planeta con l'autoscala. Ci era costato allora, io qua, ci era costato 6 anni fa, mi pare sui 330-340 milioni. Sì. D'altronde piazzare il ponte a quell'altezza quando c'è vento non è l'ideale, non è l'ideale. E d'altronde quando si usa la scala, quella è cara lo stesso e non è che sia. Non so adesso che preventivo vi avevano fatto loro da montare il ponteggio, se ne valeva la pena da tra il ponteggio e la scala, no? La scala R diciamo è un'altra cosa, che loro poi piegano, sporcano niente, sporcano il meno possibile, il ponteggio sporca diciamo di più, ecco, tutto lì il discorso. Esattamente quanto era al giorno il prezzo l'autoscala, ma era molto alto il prezzo complessivo tra materiale e tutto, c'era costato, mi ricordo, quello non ricordo perché poi avevamo fatto le suddivisioni. Qua siamo in 110, sono 6 scale, la torre dove sono io e poi gli altri sono tutte a scendere, capito? Quindi da 10 piani scende, sono tutti a scalare, dopo il piazzale, non so se l'hai visto, sono 10, 8, 7, sino ad arrivare mi pare 5 piani, 4 piani, molto grande il complesso, e praticamente c'era venuto 1.700.000 lire a testa, questo me lo ricordo. Che ero io, comunque vi saluto, chi c'è ancora Falchetto? Salutone Rube, mi hai sentito per il tratto? Un attimino sono entrato a fare, non me l'ha modulato, un altro apparato è questo, sai? Questo è il vomito. Mi piace, più calda, più tranquilla. Allora, stavo sempre con Marco Lovato, ma com'è quel tipo di poco fa, Claudio? Giovanni, mi ha detto nominativo, di grotto, di gretta, buono, di un peso, perché arrivava molto in mezzo a quello e meno, praticamente dalla zona che porta su, la grande setto, da lì stava a parlare. Ma è macchina o è cioè, mezzo a fare fisso? A casa c'ha una 5 tardi, tipo Mandova, tipo quella che c'ha Falchetto. Ma già arrivava, ma molto QRM, però io ho QRM6. Lo sentivo qua, insomma, se fate di tutte, funzionava come non avevo mai hai sentito, ma come? Oh, c'è una situazione particolare, io adesso ho sentito, adesso mezz'ora fa, quando stavo facendo lavoro un po' prima, stavo ascoltando, come sono arrivato, c'erano dei segnali, non so da dove stessero modulando, se erano in Inghilterra, ma stavano 9:20, stavano arrivando, segnali allucinanti, poi ma dalla canale non ne parliamo, questi erano in AM, canale sì, segnali fortissimi. Non so, non riesco a capire la lingua, perché non so se stava parlando in inglese o se stava, o cioè se era in inglese veramente. Comunque c'era qualcuno in inglese, però come stavo dicendo Antonio arrivano molto quelle matti, molto sporchi come propagazione infernale è un po' particolare rispetto a quella estiva, quindi è un po' troppo quella matta, però già arrivano, si sente. Sì, ma anch'io lo bello, non ti dico, lo sentivo bene, ma come quando ci ascoltavo a 5 a Antonio e 7 a me, ma io uso più potenza rispetto a Antonio. Vabbè, io sono ascoltato un attimino, ho sentito poi, ho sentito stavate parlando, stavo per dare il colpo importante per parlare, mi ha suonato il telefono, ho mollato, non ho fatto tempo a dirvi, ho finito adesso un quarto d'ora, quanto c'è da attaccare il telefono, un quarto d'ora. Ma io ho suonato a parlare Antonio, ho visto la sua portante, le portanti così alte siamo qua, quindi non ho fatto nome, ma mi ho immaginato che forse di due hai schiacciato involontariamente, invece sta rientrando, ti hanno chiamato il telefono. Succede. E noi ieri stavamo, proprio ci stiamo andando a guardare, la radio sta usando adesso Antonio. Ieri sera eravamo tra la sera qua, mettendo a posto quella radio, facendo le connessioni e tutto, ha schiacciato il telefono, sono dovuto andare a Trentino, mi sono venuto anche Antonio a farmi compagnia. E lo sapeva. Purtroppo è così. E anche stasera mi hanno salvato, noi siamo scesi a trovare Luigi, Murtano, dovevamo vedere alcune cose, proprio di radio, e ha squillato il telefono, e lui mi ha suonato, ma c'era una giornata chimica che mi ha avvisato che domani mattina arriva del materiale alla corte, siccome non ci sono, ho chiamato mio collega, ho detto di alle 9:30 li faccio trovare alla corte. Va bene, vai a tu. E infatti non ti sei sbagliato, la portata era alta, KK, e così. Sì, un bel canale con un sacco di preparazione. Sì, però sono o inglesi o non lo so, non saprei cosa dire. Sì, ma che microfono sta utilizzando? L'F13 li abbiamo adattato, perché era l'unico microfono che avevo di quelli, insomma, da battaglia, perché stiamo mettendo a posto l'M500, quello della Intec, che è un po' incasinato, l'hanno incasinato un po' come circuito, quindi ci vuole un po' più di pazienza a lavorarci, ma anche quello ce la metteremo qui. E poi attaccare quello lì a provare, ma per il momento sto usando questo F13, che va bene. No, non è buona. C'è anche io un mobile con me, ho già trattato un paio di usi. No, non è male come paracchino, però come modulazione è superiore alla 48. Ce l'avevo, ma l'ho portato giù a Platamona un paio di anni fa. C'era di quellino, c'ha tutte le bande, c'ha frequenze, eccetera, eccetera. Però come modulazione migliore la 48 secondo me. Diciamo che con gli abili un W3, un WM300 funziona, un bel modulatore, perché l'F13 non spinge più di tanto, è un microfono così giusto, possiamo chiamarlo anche microfono normale, non è un microfono da pro, era giusto per farlo funzionare e per sentirlo un po' di modulazione, capito? Perché non era proprio niente il microfono. Lo usava come ricevitore per ascoltarsi in turno, adesso abbiamo fatto già il primo. Si cambia 1, 2, 3, Natale, vai copiando. 1, 2, 3, Natalino, mi stai copiando, cambio. Dai, sì, è 175.50. Siamo 165.50, Giammarì. Sì, ok. Sono passaggio, Franchi. 1, 2, Gianmarì, io mi sento Paperini, tutte e due, mi sento Paperini. Io adesso ti ho sentato perfettamente. come c'è qualche differenza tra un apparecchio e l'altro. Vabbè, c'è la differenza, però io riesco a copiarlo perfettamente, come riesco a copiare anche a te, quindi perfetto, perfetto, perfetto. Vedo un po' avanti, Natale.